Siamo in missione per conto di Dio. "24 mattino" di Luca Telese. Una storia su come si cade e speriamo si risorge è una storia che accade in diretta e che è bello seguire. Pronto? Sì, sì, vai. Ah, sì, sì. Allora, vabbè, non posso essere troppo cattiva, no. Ma come diceva il buon Andreotti, a pensar male talvolta non si sbaglia. Qui si aprono, si chiudono finestre, bisogna infilarsi in mezzo. Non a caso la chiamano la D. Legislatore, è vero che lo critico spesso accusandolo di essere cieco, sordo e inabile all'esercizio del cervello. Sono ipnotizzato, ascolto le sue pause, la sua voce. Non gliel'ha ordinato il medico a questa signora. Vabbè, okay? Se certo. L'è presa lei la responsabilità. A Roma si va come per le piaghe d'Egitto, prima i frigoriferi, esatto. Poi i materassi. Perché non abbiamo bisogno di sconquassare la questione sociale. Segnatevi la ricetta, segnatevi la ricetta! Ho capito che non si può dire che Roma è sporca. Cretinotti come me e quattro gatti di liberali. Sono veramente bravi. Ho detto glifosato, ho detto glisofato, vabbè. Gallitelli chi? Davvero. Incredibile i francesi. Quando al liceo mi raccontavano dell'alba dalle dita di rosa, Rhododactylos. Perché poi in Italia le polemiche non finiscono mai. Popolo dei già svegli, buongiorno. Siamo qui a farci compagnia in questa alba, in questa notte. Qui piove in quest'ora, eppure noi siamo riuniti. Luca, Fulvio, Valerio, Alessandro, Rachele, Lorenzo. Pensate quanti lavorano per voi. E al mio fianco il comandante Alberto Castelvecchi. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, oggi ne succedono un po' di tutti i colori. È il giorno in cui ancora si parla delle fake news e nessuno ha ancora capito che sono queste fake news. È il giorno del glifosato, è il giorno della Raggi, una proposta, dare 1.000 euro a singoli cittadini per assistere degli extracomunitari. È il giorno dei padri e dei figli, il giorno dei licenziamenti, il giorno di tante cose che voglio parlare, di cui voglio parlare e voglio discutere con voi. Allora, iniziamo subito con il fritto misto, Julio Velasco. Ha fiducia nel popolo italiano e noi nei Beatles. Sentite che sound. Che secondo me il popolo italiano, la gente d'Italia, ha delle capacità straordinarie. Io ci ho sempre creduto, per quello che anche abbiamo raggiunto grandi risultati con la nazionale. Bisogna sbloccare questa caratteristica di non affrontare le cose. Io ho visto gli italiani in Argentina, invece che erano immigranti che sono arrivati senza nulla e spesso da soli, nemmeno con la famiglia, che dei alibi avevano poco. Certo. E hanno fatto delle cose straordinarie, tutti sono riusciti a uscire dalla situazione di povertà. Mitico allenatore Julio Velasco ci dà questo ritratto degli italiani con cui volevamo cominciare la giornata. Sembra che voglia dire che gli italiani sono grandi solo quando vedono i sorci verdi, cioè quando esatto. Gli italiani sono allora veramente allora rispetto tanto, con le pezze al culo allora fanno grandi cose. Sarà mica che dobbiamo sospendere lo stipendio ai calciatori della nazionale, se dobbiamo fare qualche cosa per metterli al lavoro. E allora partiamo da piccoli grandi eroi, gli insegnanti delle Eolie che prendono l'aliscafo di domenica per garantire l'insegnamento regolare ad Alicudi. Anche questo è l'Italia. Qui alle Eolie sta arrivando una meravigliosa tempesta di ponente e già da questo pomeriggio non si può più viaggiare, domani saremo sicuramente isolati almeno nelle isole più lontane. Oggi di domenica sono già in servizio per garantire l'inizio della scuola, domani di lunedì garantire tutta la settimana. Bello, questo, una dedica. Questo è eroi, la bellezza. Anche voi già svegli un giorno prima al lavoro. Esattamente così, se tu ci pensi, la bellezza della radio che ti fa sentire le tempeste anche se non le vedi, no? La poesia della radio è che nell'oscurità ancora delle 6:30 del mattino senti questa voce che arriva da Alicudi, uno stato italiano che ogni tanto sembra esserci. Pensa che bello, Luca, noi ci lamentiamo di mala sanità, di mala scuola, di quest'altro, o polemizziamo contro la buona scuola. Potevano dire non siamo venuti causa tempesta, causa nessuno tempesta, li avrebbe detto niente, no, sono partiti il giorno nonostante prima. Nonostante la minaccia di tempesta qui, bambini, ecco, queste sono le cose che ogni tanto la radio deve raccontare, perché solo la radio trovi spazio per raccontare la follia dolce degli esseri umani. Bravo, no? Fulvio è. Che l'ha reperito. Rigopiano, la telefonata deve la vergogna, ve ne abbiamo già parlato, ma questa inchiesta invece sta tirando fuori il peggio dell'Italia. Abbiamo avuto una telefonata di una persona che diceva che l'hotel Rigopiano c'erano feriti, cosi per crolli, eccetera, eccetera. Abbiamo la telefonata registrata nella nostra centrale operativa. Non risponde poi più. Tu hai notizia? Ma certo che ho notizia. Quindi no, tutto a posto. Tutto a posto. Benissimo, guarda, mi fa un grande piacere, sarò tra poco a metà febbraio di nuovo vostro ospite. E quindi che devo dire? L'importante è che è sicuro che non ci sia niente. Sì, sicuro una cippa, come si suol dire, sì. Perché, come ho raccontato, se no questa telefonata non si capisce, mentre arrivavano le chiamate disperate di chi chiedeva soccorso, c'era tutto un lavorio, lo spazzaneve lo mandiamo qua che c'è il sindaco amico nostro e l'intervento va fatto qui perché qui c'è un amico mio. C'era la raccomandazione della tragedia. Sullo spazzaneve. Intanto va detto che a Rigopiano, quell'albergo, in quelle condizioni sotto il costone di montagna, non ci doveva essere, e che questo è poi, diciamo, sono gli effetti comico-grotteschi, tragici di un paese che non sa fare sicurezza sul territorio. Cioè, quando si è abbattuto quel pezzo di montagna su quell'albergo, è l'epilogo di l'ennesimo episodio di incuria del paesaggio, no? Perché in Italia pezzi di montagna che vengono a valle o di fiumi che straripano ce ne sono in ogni momento, ma questo non è casuale, non succede per caso. E poi certo la cialtroneria di chi dovrebbe provvedere dopo equivale alla cialtroneria di chi dovrebbe sorvegliare e non dare licenze edilizie e guardare il territorio prima. Questa però è la storia del nostro paese, Carluca. Questo sicuramente dividerà gli ascoltatori. Più avanti, nella Bergamasca, Orio Center, centro commerciale, lavoratori in sciopero perché non vogliono essere precettati per il lavoro nel giorno di Natale. Questo è un grande dilemma. Molti ci rispondono, ma insomma lavorano, devono essere contenti. Si può, come dire, difendere il diritto a dire io lavoro ma non a Natale, ma non certe domeniche? Ma sai, su questo noi siamo un paese cattolico. Per esempio anche in Francia il lavoro di domenica nei centri commerciali viene sospeso. C'è proprio un... Se tu ci pensi, il giorno di Natale o la domenica tu puoi fare il tassista, puoi guidare aerei, puoi fare il portantino di un'ambulanza, eccetera, eccetera. Ma laddove cioè, si tratta del rito del consumo, di servizio, il consumismo, l'idea che si possa consumare, visitare negozi il giorno di Natale, viene sentito un po' come un'offesa alla sacralità di quel giorno in cui tutto dovrebbe essere sospeso. E quindi sostanzialmente è il grande rito pagano del consumismo che si oppone alla necessità di sospendere il lavoro per motivi religiosi. E la Chiesa Cattolica ha più volte detto che appunto il giorno di Natale non si dovrebbe lavorare. E lo slogan era nemmeno l'Atalanta gioca a Natale, ma di questo discuteremo. Di Battista definisce Berlusconi un disco rotto. Per me è un po' un disco rotto perché dal 94 dice le stesse cose. L'avversario del Movimento 5 Stelle non è Berlusconi. Questo paese è fatto alla rovescia, Berlusconi con Forza Italia ha creato Equitalia e la sinistra ha abolito l'articolo 18. Si parla tanto del ritorno di questo soggetto qui, ma c'ha il 13% e oggi ha paura, una paura enorme della possibilità che possa vincere il Movimento 5 Stelle perché gli facciamo una legge anticorruzione che gli svuota il partito in 24 ore. Accidenti. Per essere uno che si è ritirato, diciamo, meno male che dedito alla famiglia, è lì impegnato. Lo avremo preso. Vabbè, sì, ma il nuovo disco, appunto, il disco Dibba invece di disco rotto, perché adesso lo sentiremo. Meno sta in Parlamento, Dibba più parla. Questo è il segreto, questo è quello che voleva fare. Silenzio, Gene Gnocchi ha anche scritto un libro e torna con le sue battutacce caustiche di martedì. Oggi è una ricorrenza speciale, è il 25esimo anniversario del primo SMS, esattamente 25 anni fa veniva spedito il primo SMS, c'era scritto, sai cosa? Se ti chiedono qualcosa, di che sei la nipote di Mubarak. Ecco, chi l'avrà mandato? Perfido, Fabio Volo nel camerino di Berlusconi per parlare di Ius Soli. C'è stata un'intercettazione? No, è un racconto. ieri ho incontrato Silvio Berlusconi. Ha detto una cosa che mi ha toccato, no? Quando ha parlato dei bambini, dello Ius. E quando lui poi è uscito, è andato in camerino, io sono andato a bussare e ho detto: posso parlare? E io a un certo punto mi sono avvicinato e col dito facevo titti qua sul pettorale destro, sulla sua tetta destra, no? Ma io ho detto: senta, quella roba lì che ha detto dello Ius non è una cosa figa, gli ho detto, ma non è nemmeno una cosa da lei. Cioè, finché la dice Salvini, sono teste quadre, va bene, no? E lui mi ha guardato, si vede che si aspettava solo la foto, non lo so, ha chiuso un occhio. Che poi mi ha detto: va bene, grazie, la saluto. Ed ma è andato come via. Va bene. È imperscrutabile. Mentre invece la Littizzetto interviene sulle famiglie diverse. Anche i supereroi, dice, confondono le cose. Ma guarda, anche nei fumetti ci sono delle famiglie meravigliose. Zio Paperino che vive coi tre nipoti, qui qua qua. Nonna Papera che non è mamma di nessuno ma è nonna sempre di tutti. Il Kung Fu Panda che ha due genitori, uno adottivo che è un papero e quello biologico che è un panda. Guarda anche Batman e Robin, sono gay, e chi se ne frega. L'importante è che se uno è in pericolo lancia il bat segnale e l'altro arriva. Senza parlare di Geppetto che è vedovo e c'è un figlio di legno. Vabbè, ma è cult, eh? Non avevo mai visto le cose da questo punto di vista. No, ma dimmi tu che sei un cultore dei fenomeni. Batman e Robin sono veramente gay? E questo, sono un'icona gay, un po' come Mastrolindo. Ti ricordi Mastrolindo col bicipitone all'orecchino? No? Mastrolindo è l'idraulico che tu lasci tranquillamente a casa con tua moglie, tanto si vede che, pur essendo palestrato, è, rientra nell'icona però gay del palestrato. Però hai triplato la domanda su Batman e dunque, Robin. C'è questa, bisogna avere sono un'icona gay di culto, questo è vero. Batman e Robin da sempre sono... Anche perché Robin è il tipico toy boy e Batman è un uomo maturo, e quindi c'è un po' questa cosa tipo, no? Lo stilista di moda con il giovane fotomodello, cioè c'è tutta una serie di toy boys della... e sì, lo sono da sempre. Il diavolo veste Batman. Salvini: io mi occupo dei vivi e non dei morti. Questa è la battuta che ha diviso ieri, titolo sui giornali di oggi. A me piacerebbe che questo Parlamento si occupasse degli italiani che stanno vivendo, quindi più che di una buona morte, cui ragioneremo, di una buona vita, che a milioni di italiani purtroppo non è garantita in questo momento. È una frase shock e politicamente scorretta o è una normale dichiarazione, come dire, io parlo d'altro? Ma Salvini c'ha ragione a metà, cioè bisogna garantire una buona vita a chi lavora, campa, eccetera, eccetera, e bisognerebbe però garantire una buona morte a chi soffre immensamente. Ha detto una mezza verità e una mezza minchiata, solo che se tu dici una mezza minchiata, in realtà la mezza minchiata prende il posto del 100% dell'informazione, cioè Salvini riprende, arripiate, come si dice a Roma, hai detto una minchiata. Capita anche a un ragazzo brillante come il Matteo leghista. Allora, dopo che il Matteo piddista ne dice uno al giorno, insomma. Ho anche uno Sgarbi, un po' caustico, però coprite le orecchie ai bambini, sentiamo le strade e poi con molta cautela Sgarbi. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Mattino. Già svegli. Mi alzo perché sono curiosa, mi alzo perché sono un'inquieta, mi alzo perché voglio leggere i giornali presto, sfogliarli e poi, quando sono in onda, anche raccontarli a chi mi ascolta. Perché sono sveglio? Perché devo lavorare. Perché devo lavorare? Per mangiare. Perché devo mangiare? Per vivere. Ma io sono già sveglia e anzi cerco di svegliarmi a questa ora così presto perché voglio ascoltare Luca Telese, che mi piace tantissimo. Luca, sei proprio bravo, sei discreto e anche ironico e hai il senso dello humor. Ha ragione quel tuo ascoltatore che dice che sei di sinistra, per me hai dei bei paraocchi. Purtroppo sei poco obiettivo, secondo me. Ciao a tutti, buongiorno, sono Giuseppe, sono un tassista di Milano. La mattina si parte con le 6.30, ci si sveglia, si porta i bambini a scuola e alle 8 in punto si parte con cani e gatti. che meraviglia, il grande racconto dell'Italia, eh? Sai che anch'io mi sveglio presto la mattina sempre, però c'è due motivi per cui vengo qui a Radio 24. Uno per stare col mio vecchissimo amico Luca Telese, perché più passano gli anni e Luca Telese con il vino migliora, e poi perché Rachele della redazione di Radio 24 è l'unica che riesce a far diventare buono il caffè della macchinetta. Ma quello è un qual è il mistero? Perché i caffè della macchinetta fanno tutti schifo, io visito aziende in continuazione. Qui a Radio 24, anzi, venite tu, tassisti di Roma, passate da Luca che un caffè non si nega a nessuno. No, ma che bello, ma perché ancora non ci ha chiamato un edicolante? Voglio fare un appello, 02 30 22 44 92, perché noi tassisti, edicolanti, le professioni della mattina, panettieri, vogliamo un panettiere. Però molto bella questa cosa di chi accompagna i bambini, di quelli che ieri protestavano dicendo avete svelato il segreto di Babbo Natale. È così. E ti fa pensare. Allora, vi avevo preannunciato questo Sgarbi, parlava dei partiti politici italiani e a lei. Massimo del vuoto, chiamare in albergo, chiamare un nome con la denominazione dell'albergo, 5 Stelle. E una quantità di cazzoni votano quei coglioni. Il genio di Grillo, che non è un coglione, è aver trasformato quello che nessuno è riuscito a fare, la merda in oro. Quindi Grillo è il volto nuovo della merda. Sempre sobrio, cioè sì, senza una parola fuori posto. Sembra proprio di leggere, un intellettuale europeo. Tra Angelo Panebianco e Antonio Politico, esattamente così, sullo stesso livello. Cioè quando di... la politologia assume questa forma un po' estrema. Eppure questo potrebbe essere, se vince Berlusconi, il nostro ministro dei beni culturali. Tu immagini, ecco, rispetto alla sobrietà di Franceschini, il grande vittorione nazionale, quello che potrebbe dire, non so, su restauri, muri che crollano a Pompei. Mi immagino le sue sfuriate, anche se io ho un problema. Vittorio lo adoro da sempre, cioè pur essendo su posizioni... E l'incoerenza ci rende grandi. Pica Pia attacca D'Alema. Non D'Alema ha detto che poi coscienza. Risponderà di tutto alla sua coscienza. Sì, lui dovrebbe rispondere alla coscienza degli italiani. Quando lui faceva bombardare il Kosovo, io ero nei campi profughi del Kosovo. Quindi preferisco che sulla coscienza D'Alema non dia insegnamenti a nessuno. Oh, si è arrabbiato Giuliano e batti, c'è un antefatto, qui c'è un antefatto storico importante. Perché lui l'aveva sfottuto prima. Perché se tu ricordi, no, la ricostruzione dietrologica, ma non troppo, del motivo per cui cadde il governo Prodi e salì il governo D'Alema, è che Prodi si rifiutò con di fare Cossiga la guerra. Con Cossiga in maggioranza. Esattamente, con Cossiga che architettò la caduta, che appunto D'Alema si dichiarò d'accordo preventivamente a fare la guerra della NATO nei Balcani. Ora, siccome purtroppo nei Balcani noi abbiamo anche disperso ordigni all'uranio impoverito, molti accusano D'Alema, che era presidente del Consiglio, ma sai, la NATO fa la guerra in proprio, non c'è bisogno di presidente del Consiglio, di essere il mandante o comunque il complice di questa cosa. E credo che D'Alema sarà a rispondere a par suo, però obiettivamente c'è una qualche... Ecco, diciamo, non è proprio una fake news, è una, se vogliamo, un'accusa politica, ma non è proprio una cosa del tutto campata per aria. Oh, Serena, un messaggio quasi lirico, a parte il fatto che ci dice che si sveglia, ci ascolta e poi dice: il popolo dell'alba che viaggia, parla e ascolta con calma prima che il giorno cominci a urlare. Pensa. Ma questo è il titolo di un grande romanzo. Sembra Carducci che dice: urla e biancheggia il mare. Perché pensa a questa immagine acustica. Noi siamo abituati a immagini visive tipo prati verdi e cieli azzurri. Le immagini acustiche, la pioggia che picchietta sul davanti, la sinestesia, il giorno che urla, no? Prima che il giorno cominci a urlare. Sei tu che ci dai il titolo oggi, Serena, brava. E Scamarcio, ah no, Gabanelli, ha esordito a Gabanelli come opinionista dopo il grande silenzio alla 7, intervenuta da Floris. Credo che sia un problema immenso perché l'evasione è furto e questo è veramente, io credo, una mancanza di consapevolezza veramente pesante, cioè, anche da parte della popolazione che non si indigna. E pensate, Scamarcio racconta di essere stato diffamato e archiviato dopo 7 anni. Ma perché? Guardate. Io sono stato vittima di una calunnia a mezzo stampa che lo Stato italiano è stato capace di far andare in prescrizione. Capolavoro assoluto. Cioè io mi sono difeso, sono stato calunniato a mezzo stampa, diffamato, La loro querela è stata archiviata per insussistenza di prove e io ho aspettato 7 anni per avere giustizia e l'hanno fatto andare in prescrizione e trasferendo quindi un giudice da una stanza all'altra. Però Scamarcio è un bel polemista, lo senti, quando parte. Bisognerebbe capire cos'era questa querela. Mi piace molto. Perché cosa querelò Scamarcio, non so. Non abbiamo notizie, se fatecelo sapere. Però Scamarcio ha scoperto la giustizia italiana. Beh, è arrivato. Ma non essere però sarcastico. Quando ti tocca è bello racconti un'esperienza la lentezza diretta, del, che non la lentezza della Marte, prescrizione, no? Quando sei parte lesa, invece i prescritti che invece ne traggono i vantaggio. E i prescritti. I prescritti sono più contenti. E questa è l'Italia. Crozza accusa il figlio di De Luca di aver truccato un concorso in un ospedale a Napoli. In un ospedale di Napoli, per assumere nuovi infermieri, invece che fare dei concorsi apposta, hanno assunto 130 persone che erano tutte in graduatoria all'ospedale di Salerno. Guarda caso, proprio la città dove si candiderà alle prossime elezioni il figlio di De Luca. Uno che offriva fritture di totano per vincere un referendum. Figurati se si azzarda ad assumere infermieri per vincere un'elezione. Sai che è molto sentito questo problema a Napoli, la salernizzazione. La salernizzazione, beh, ma d'altro canto De Luca, è un governatore che ha una personalità strabordante e che ogni tanto eccede anche i limiti di territorialità, non ci meraviglia. Spesso appunto dilaga nel nazionale, perché non nel napoletano in fondo. Questo personaggio Salerno Caput Mundi. Ce l'abbiamo, no? Non abbiamo un De Luca. Vabbè, Alessandra Mussolini, la frase cult. Mio nonno Ostia risolverebbe i problemi in 2-3 mesi. Mettiamola come compilation. Arriva De Luca. No. Mussolini, è arrivato un messaggio da parte di Marco. Ci scrive: a Ostia per rimettere tutto a posto servirebbe suo nonno, è d'accordo? Anche 2-3 mesi. 2-3 mesi di suo nonno a Ostia e si risolve tutto. Io credo che quando già abbiamo già detto no comment. Ma ci vuole l'uomo forte, ormai tutti inneggiano l'uomo forte, no? Per cui ognuno vuole avere il suo. E il problema è che chi è l'uomo forte oggi? Grazie Alberto Castelvecchi, 6:55. Ci fermiamo ancora per il giornale radio e torniamo subito dopo con la rassegna.